fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ristoradio Convento, 2:12 della notte, sabato 10 novembre del 2018, e continuiamo a fare il giro con i nostri ospiti. È il momento di tornare a Mozzanica, perché abbiamo già avuto due esponenti del gruppo, per la regione Valentina e Nicola, se non mi ricordo male, l'autista di autobus e la farmacista. E abbiamo altre tre ragazze, quindi diciamo che rispetto alla situazione precedente sto anche un po' meglio, perché insomma, tre ragazze fa sempre molto molto piacere averle qui con noi. E vai, partiamo con le presentazioni. Io sono Laura. Laura? Silvia. Silvia? E io sono Ambra. Laura, Silvia e Ambra, quindi abbiamo due nomi tradizionalissimi, cioè super italiani, mentre Ambra già lo vedo un po'... un po' meno, un po' più particolare, no, però molto molto bello di tutti. E vabbè, venite da Mozzanica, l'abbiamo detto. Ricordiamo giustamente anche la vostra classe, la vostra coscrizione. 1993. Quindi 25 anni. Facciamo che faccio anche a voi la stessa domanda che ho fatto ai vostri amici e colleghi, perché mi sembra interessante saperla. 25 anni, l'età di? 25 anni. Bello, mi piace la tua sensibilità e la tua concretezza. No, a parte gli scherzi, come tali cambiamenti? Perché è comunque un numero importante, eh. Sono convinta che se che me lua la sosta giù, come dicono i bergamaschi. Ma questa penso che sia la miglior risposta della storia dell'universo. Ripetila, ripetila bene. Se che me lua la sosta giù. E rendila italiana per noi che non lo conosciamo. Zucche e meloni, è la propria stagione. 25 anni vengono una volta sola e bisogna goderseli. Sì? È la stessa cosa che volevo dire io, ma così bene in dialetto non riesco a dirla. Ma sai che l'Ambra a volte, cioè, tira fuori dal cilindro, il coniglio. Il coniglio dal cilindro. Che però è anche un bel modo per dire, girando la frase, che ogni stagione, come dicevi prima, ha le sue zucche e i suoi meloni, ma vuole anche dire che ogni età corrisponde anche a certe cose, come diceva lei prima, la stagione dei cambiamenti o l'età dei cambiamenti. E però io aspetto ancora la Laura che mi dia una risposta consona al suo livello culturale e sociale. In questo momento sta cambiando. Ah, sta cambiando io anche lei. Cambiando. Ma sei tu quella dei cambiamenti? Lei Io veramente sto cambiando. Stai cambiando? Nel senso che stai diventando uomo? Progetti. Ah no, ok. Sto diventando proprio donna con la D maiuscola. Donna con la D maiuscola, che bello. Quindi, tra due anni. Quindi ogni 28 giorni c'hai quella cosa che vi succede. No, tra due anni, se tutto va bene, mi sposo così. Uila, davvero? Così me lo dici? Grande Laura! Sì! Mamma mia, grandi rivelazioni nella nostra radio, non lo sapevano neanche loro. E dove, cioè, quando è stato deciso? 5 minuti fa? No, è stato deciso un po' di mesi fa. Tra l'altro non è per niente agitata, visto che se sentite la voce tremolante è perché nel frattempo sta saltando tipo trampolino. È l'amore. Esatto, è l'amore che fa brutti effetti. È l'amore. Nonostante non siamo in... No, scusa, aspetta, è stato deciso? Wendy, dicevi? No, beh, qualche mese fa. Ma l'ha deciso lui o l'hai deciso tu? No, l'abbiamo deciso insieme. Che è la cosa più bella. Ma veramente non lo sapevate voi? Ristrutturazione. Vai, domanda. Ma certo. Ma c'è un anello, un inginocchiamento, una... Non c'è un anello, ragazzi. Infatti io la prima cosa che ho guardato è stata guardarle le mani subito. Poi ho visto quello lì, ma ho capito che non era. Io l'anello non ho la proposta. Scusa, Io non lo voglio l'anello. Ma proprio no. Io ho l'anello a casa e non ho la ragazza, quindi nel senso che giro con un anello ogni tanto così, perché fa comunque da tono, no? Esatto. E bello, bella cosa. Ma adesso, insomma, spiegalo anche loro com'è andata, perché non lo sanno. Sì, ragazze, ha iniziato la ristrutturazione. E si prevede tra due anni la fine. No, la fine, il matrimonio. Tra due anni. Bella Laura! È decisa. E quindi diciamo che per una volta l'oggetto, chiamiamolo così, è stato ha dato il via, diciamo, ad altri meccanismi. Cioè l'oggetto rappresentato dalla casa ha dato il via a tutto quello che poi succede dopo. Sì, esatto. Grande Laura, iniziamo a sposare. Mi raccomando, ci sono, va bene. Presenti sempre. No, allora, aspetta, Ambra, amica mia. Ci sono se la Laura decide che ci sei. No, ma cioè, comunque ci sono. Non è che ci sia autoinvita ai matrimoni. Ma certo. Ah, ti imbuchi, ma anche va. Cioè, ma anche fare imbucata. Tra l'altro, non può mancare. Bene, bene. Eh no, perché comunque deve arrivare l'invito. Oltre al. Prima l'anello. Perdonami, prima l'anello. Sì, prima l'anello. Poi l'invito. Tanto no, non lo aspetta, non lo sta aspettando con ansia questo anello, l'ha già detto 7 volte. Poi posso aggiungere una cosa. Certo. Laura, prima del sì, tu chiedimi che guardo se è il periodo del 7:30, se posso oppure no. Perché non è che qua lavori in uno studio? L'invito lo accetto, sì? Però sempre che la mia dichiarazione dei redditi permette. Perché io non mi invito a un non mi presento a un matrimonio. Oddio, senza, ragazzi, la busta. Il matrimonio di un'amica non si rifiuta mai, no? Basta la presenza. Beh, però tu sei una persona, cioè, che dà importanza anche al gesto, al regalo, al dono. Almeno che facciamo così, ti porto il mio 7:30 e ci pensi tu a saltare. Ma lei lo sa che a me il regalo non mi interessa. Brava Laura! A me interessa la festa. Ecco, va bene, bene. Io ci sono. Dica. Alzo la mano come fosse a scuola per salvarvi dalla situazione, come si deve fare con i professionisti che lo fanno. Il suo invito e il suo busta non deve arrivare, perché lei, per la legge dei grandi numeri, si annullano i soldi che dovrebbe dare, i soldi che dovrebbe guadagnare, perché ha appena detto che sfonderà nel mondo della musica e del canto, quindi hai già l'artista che ti suona al matrimonio. Esatto. Perché canto io, vabbè. Canta lei, non la paghi, non la paghi, e lei non ti dà la busta. Laura, io sono il tuo regalo del esatto. matrimonio. Esatto. Però tu... Tu non le dai il cachet, non le dai il cachet e lei non ti dà la busta, no. Quindi fa zero. Perfetto. Fa zero, si annullano. Come ieri, a scherzi a parte, che Pappalardo ha cantato gratis al... No, non è vero, pagato. No, ragazzi, adesso io voglio sentire la canzone. Vabbè, tu lo fai gratis per un'amica. Allora, io direi, cominciamo a pensare alla scaletta o comunque alla canzone. Alla canzone, alla canzone che faresti per Laura. Sentiamo in la canzone che faresti per Laura. Eh no, sei tu la, scusami, sei tu la cantante, l'artista. Ma lei è la mia managerlo, già. Beh, ho capito, ma è l'artista, è l'artista che decide. Mi deve dire cosa devo cantare. Amor mio, basto io. Mi sa che è lei quella che sfonda. Esatto, stava cantando lei, ma è l'artista, cioè il manager canta. Ma è la mia voce questa, capito? Ah, chiaro, chiaro, chiaro. Grande Laura! Bello, bello. Ci piace dare queste belle notizie qui nella nostra radio. E io già mi immagino la scena di lei vestita benissimo, vestito lunghissimo, che apre solo la bocca e lei dietro le quinte in tuta col cappuccio, che in realtà la voce è la sua e nessuno la riconosce. No, ma poi il mio stile, io andrei a sposi in tuta, cioè, capisci? Ah, ok, bene. Andrei proprio volentieri. Sì, certo, certo. Laura non ci resterebbe benissimo, però... Sera. Vabbè, io accetto tutto, dai ragazzi. Accetto tutto, buona. Amica spallona della compagnia. Io sarò una principessa. Sei bellissima sempre, Laura. Sì, ma Lauri, ma il diadema. Vabbè, adesso non ti spingere troppo in là. Già non c'è l'anello, già il diadema, penso. No, però posso ragazzi fare una richiesta. Devi. Alla scelta dell'abito io voglio essere. Ci sarai, Silvia. Ok, sarai. Grazie. Parlo anche per Giorgio. Ovviamente il mio testimone. Ok, va bene. Mici, ciao. Ciao, hai Giorgio! Visto che io penso sempre ti amiamo. A te. Ciao, Orghe. Perché non ci sei. Punto esclamativo. Però non si può dire una parolaccia. No, beh, insomma, se la sentite dal cuore. Ma dal profondo. Esatto, ci sta. Io non intervengo perché chiaramente non conosco le vicende. Non sei uno stronzo, ma sei marrone puzzi. Mi piace. No, della creatività la ragazza. Sei marrone puzzi. No, stavo pensando se c'era qualche cosa che potesse confondere, ma non c'è. Cioè non c'è nient'altro che marrone puzza. Cioè non è che può sbagliarsi e dire boh, magari parlava della sabbia, della terra, no. È marrone, ma non puzza, non esatto. C'è nient'altro. Però non è neanche offensivo. Cioè non no, non parlare. È offensivo, però è quella, cioè, nel senso, è quella cosa che non puoi confonderti, non puoi sbagliarti. Non puoi malintendere. Puzza, non lo amiamo, ok? Anche se esatto. Non c'è. Ti amiamo. Che bello, che bello, che è l'amore vero. Bene, a questo punto ci rimane una cosa da sapere: chi è il fortunato? Manuel, è stato insieme da quanto? 3 anni e mezzo. No, bene, bello, beh, pensavo 4 giorni. Sì, io, prima ti fa diventare zia. Dici. Io ormai ci ho rinunciato, grande Laura, vai avanti così. Grazie. Perfetto. Hai tolto un impiccio. sappiamo. Tra l'altro vorrei nuovamente sottolineare 1995, cioè sembra che stiamo parlando con delle 45enni, invece no. 93, scusa, no, sto pensando 25, perdonami. 1993, quindi stavamo parlando delle quarantenni, no, hanno 25 anni, quindi senti che bei discorsi che già fanno da grandi donne, come si dichiarano. Allora, velocemente. Ciao papà, hai sentito cosa ha detto questo ragazzo? È vero, ecco, è la verità, è la verità. Ecco, ciao papà. Vai, quindi velocemente. Adesso andiamo anche con le altre due. Tu la tua vita, raccontaci la tua vita. Allora, la mia cosa vita... fai? Che cambiamenti hai in programma? Cosa prevedi di? I cambiamenti che ho in programma sono in funzione del mio moroso che sto aspettando. Sì. Perché noi una casa non l'abbiamo. Sì. Però vabbè, sono 2 anni e mezzo che stiamo insieme e... Quindi si potrebbe concludere, sì, dici? Sì, dai. Cioè, io penso che... Poi il prezzo del mattone è basso adesso, quindi... Esatto. Diciamo... Poi mio papà fa il muratore. È fatta. È fatta, cacchio, è fatta. Facciamo pubblicità. Esatto. E ormai tu, è pubblicità. E poi per concludere, Ambra... Sto mettendo a posto casa anch'io. E il mio muratore è suo papà, tra l'altro. Cioè, mettendo a posto casa la tua cameretta, tipo riordini il peluche, no? No, purtroppo per fortuna è la casa col mio amore. Non vedo l'ora, guarda. Che sia finita e sia pronta. Ma guarda, 3 ragazze veramente con la testa sulle spalle, serissime. Sono anni che l'aspetto, sono 8 anni che siamo insieme. Cavoia. E loro tanto. Cioè 8 anni tipo, cioè vi scambiavate le figurine quando vi siete conosciuti? Avevo 17 anni. 17. Ho trovato il vero amore. 17. E non pensavo, perché avevo la testa più matta di adesso. È chiaro. Eppure mi sopporta, ragazzi. Esatto. Ciao Miki. È santo. Tra l'altro mi prendo la libertà, visto che siamo solo in 3 e c'hai un bottone slacciato tipo da un quarto d'ora, te lo volevo segnalare proprio perché insomma, per far pubblicità al suo moroso, il mio meccanico. Cioè, insomma, ve la ingrifate tutta in famiglia voi, sì, cioè, esatto. Nel senso, ve la fate girare. È importante che siano amiche. È peggio di un clan mafioso questo, è peggio di un clan. È peggio. Presente se si scioglie la nostra amicizia. È un casino. Che partono adesso. È un casino, sì. No, rimanete sotto un ponte e senza luce e senza corrente. No, facciamo pubblicità già che siamo in una radio. Devi. Siamo... Radio Convento. Allora, ristorante dell'albero, @libero.it, andate a vedere le foto, mi raccomando. Grazie. Sì, motiva, come mai? Perché sono la terza generazione di questo ristorante, ho 54 anni di storia e andiamo avanti così, dai. E tu cosa fai? Io faccio un po' di tutto, bello. Carriera, quello che è il boccia del ristorante. Lei. Sono il boccia. È il boccia, bello il boccia, mi piace come definizione. Ristorante dell'albero. Va bene, andiamo a trovarvi. Specialità della casa? Porchetta con la polenta. Porca! Da provare, ragazzi! Porchetta con la polenta! Buonissima. Per palati fini. Brava. Beh, adesso non so quanto tradizionale del vostro posto, ma insomma ci sta con quello che fate. Brave ragazze, veramente molto interessante. Allora vi ringrazio, vi saluto. Grazie per essere state con noi. Ciao, e in bocca al lupo per tutto, tanto non c'è nulla da augurarvi perché avete già tutto bene in mente e non c'è da augurarvi nulla se non di continuare così. Grazie ancora, ciao. Grazie, ciao.